una volta Zingerle e Thorgan Hazard punisce il Paderborn, la pressione del Borussia. Ragazzi, vi prego, parlate anche del tiro al piccione, ma la Bundesliga. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nel caso in cui il campionato dovesse comunque subire un'interruzione definitiva, bisognerà ricorrere ad un algoritmo. Lo proporremo al Consiglio federale dell'8 di giugno, un algoritmo che terrà conto di diversi fattori, comunque sempre legati ai risultati e a elementi oggettivi della classifica. Difficilmente si cerca un confronto con chi poi in campo ci dovrà andare. Da noi, insomma, il tardo pomeriggio, la serata, poi sappiamo quella che può essere l'estate nostra. Non so quanto e come diventerà un problema, mi auguro, insomma, che si capisca e non siano, come purtroppo si evidenzia anche giornalisticamente, capricci o impuntature strumentali. Già da noi stiamo lavorando sul fatto di poter far entrare gente ai cinema, ai teatri, per cui credo che un'apertura parziale degli stadi, rispettando le regole del distanziamento, deve essere una cosa da pensarci, ma pensarci velocemente. Noi non possiamo arrivare sempre in ritardo. Buon pomeriggio a tutti, a Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Carlo. Ciao. Non voglio essere il becchino del calcio italiano, aveva detto in una famosa affermazione il presidente federale Gabriele Gravina qualche tempo fa, nei momenti più bui. In realtà quel vestito hanno tentato di indossarlo altri, tra interessi contrastanti all'interno dello stesso movimento, un certo brusio populista di fondo. Oggi il presidente del Cagliari, Giulini, non più tardi oggi, ha detto se si riprende il merito del presidente Gravina. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Beh, meriti riconosciuti giustamente, perché quanto detto lo pensiamo noi e l'abbiamo sempre detto, non solo oggi che lei è qui. Il momento più difficile qual è stato? Ma ce ne sono stati diversi, diciamo quello più significativo il giorno in cui è arrivata la famosa comunicazione della rinuncia della Francia a continuare le attività, o comunque del provvedimento che ha impedito ai francesi di riprendere la loro attività. È chiaro che quando all'interno di quel panorama internazionale una delle Big Five viene meno, mentre altri ancora non hanno preso decisioni, è chiaro che tutto questo poteva avere un peso sotto il profilo dell'influenza negativa. Ma abbiamo mantenuto la barra dritta, siamo andati avanti coordinandoci sempre costantemente con la UEFA, e quindi il risultato oggi credo che sia un risultato importante per tutti. Barra dritta mi sembra il termine ideale in questo caso, Giovanni. Sì, e soprattutto anche controvento, io aggiungo, perché in realtà il partito molto chiassoso di chi voleva fermare tutto, e lo abbiamo raccontato in questi mesi, era un partito forse minoritario dal punto di vista numerico, ma era un partito con una grande forza a livello di visibilità. Mi piacerebbe chiedere al presidente Gravina se in questo weekend ha lavorato meno rispetto agli altri, perché la copertina che abbiamo fatto come sintesi poi racconta di tanti altri temi che adesso vengono messi sul tavolo, e invece ci si immaginava, diciamo, che con la data di ripartenza ci fosse la possibilità di tirare un po' il fiato. Ma io sono stato sempre convinto che la fase di preparazione, di decisione alla ripartenza del campionato era forse la fase meno impegnativa. Io sono molto realista, mi rendo perfettamente conto che esistono dei rischi ancora molto attivi, rischi che non sono solo legati all'andamento della curva epidemiologica, ma sono rischi legati anche ad aspetti culturali che predominano all'interno del nostro mondo, della nostra società civile e sportiva. Diciamo che questa esperienza di questi ultimi 2-3 mesi hanno fatto sì che ciascuno di noi ha potuto sviluppare degli anticorpi, quindi abbiamo acquisito una forza, abbiamo accumulato energie che ci consentiranno anche con equilibrio di trovare equilibrio politico, ma anche equilibrio etico e morale, di proporre delle soluzioni che ci consentiranno comunque di arrivare, me lo auguro veramente di cuore, non lo dico per me, lo dico per il calcio, per lo sport, ma per tutti gli appassionati di calcio, ad una chiusura di questo torneo, se preferite di questi tornei, che consentiranno comunque di riavviare una stagione con maggiore serenità. Questo è molto chiaro, Presidente. Ho sotto mano, l'avete pubblicato oggi sul sito, le indicazioni generali per le gare a porte chiuse, questo documento di una quarantina di pagine che è, diciamo, il protocollo della ripartenza. Pagina 2, le indicazioni sono dinamiche, dipendenti dai cambiamenti e adattamenti richiesti dagli scenari medico-sanitari e normativi in continua evoluzione. Vado al sodo, la questione della quarantena 14 giorni, quarantena fiduciaria obbligatoria al di là dei termini, che margine di speranza avete da qui al 19 giugno che si possa tornarne a parlare? Il calcio non ha mai chiesto scorciatoie, non abbiamo mai chiesto sconti. Oggi esistono delle norme chiare, delle norme che comunque consentono di poter continuare l'attività isolando un atleta o una persona, un protagonista dello staff, continuando gli allenamenti. Sappiamo che esiste questa norma all'interno di un DPCM. L'augurio, l'auspicio che si sia breve, così come abbiamo scritto accompagnando quel protocollo al ministro Spadafora, di valutare una settimana prima, quindi noi una settimana prima dell'inizio dei tornei, quindi della Coppa Italia nel caso specifico, manderemo sulla base dell'andamento della curva epidemiologica una nuova proposta, nella speranza che trovi spazio appunto all'interno di una rivisitazione di quella norma, che oggi è una norma che teoricamente, ma potrebbe anche rivelarsi dannosa poi in pratica, oggi crea grande ansia, grande preoccupazione a tutto il nostro movimento. Io le invidio molto la pazienza, non capisco come faccio ad averne così tanta nel combattere ogni giorno contro questo partito del vento contrario, diceva prima giustamente Giovanni, che è ancora operativo. Quindi si discute sulla quarantena, si discute sui protocolli, sugli orari delle partite, si discute sull'algoritmo, che non ha trovato nessuno d'accordo quanto che lei spiegava l'altro giorno, e contro il quale c'è stata un ampio dibattito, e c'è un ampio dibattito, Presidente. Sì, c'è un ampio dibattito. Un vecchio scrittore americano ha sempre ribadito che l'aquilone si alza contro vento, quindi più vento contrario c'è, più vola alto l'aquilone. In questo momento l'aquilone è il mondo del calcio, sappiamo benissimo che ci sono una serie di problemi, dobbiamo avere la capacità di dimostrare come classe dirigente di avere soluzioni a tutti questi problemi, facendo sintesi e proponendo delle soluzioni che sono soluzioni credibili, condivisibili, ma soprattutto di facile applicazione. Come valuta la posizione? Ci aiuta a capire un attimino di più cosa questo algoritmo. Oggi abbiamo visto qualche ipotesi sui giornali. Chiaramente non è la media punti, altrimenti lei avrebbe detto useremo la media punti e l'avremmo chiusa qui alla fine dell'intervista di Sky. Invece sull'algoritmo si sono scatenati poi in tanti. Se ci aiuta a capire qualcosa di più, e poi io aggiungo una considerazione. Qualunque sia la scelta, la cosa fondamentale, e mi sembra sia stata indicata dal presidente Gravina, è che le regole saranno scritte un minuto prima che si ricomincia a giocare, e io credo che a quel punto piacciono o non piacciono, poi ogni scelta in questo momento potrà essere attaccabile da qualche punto di vista, però saranno regole certe, cioè nessuno potrà dire che non sa per cosa stava giocando. Sì, mi dispiace che quell'espressione algoritmo ha dato l'idea di una sorta di pozione magica, un qualcosa che potesse comunque impattare negativamente stravolgendo il merito sportivo. Invece l'algoritmo, sappiamo benissimo, è semplicemente un procedimento sistematico di calcolo, è un messo per arrivare ad un prodotto che si chiama ponderazione delle classifiche. La ponderazione delle classifiche, sulle quali sorrido perché è davvero straordinario come nel nostro paese ci piace così avvitarci su espressioni che sono semplicemente votate a trovare equilibri, a dare certezza ad alcuni rapporti. Mi sembra, io questa espressione l'ho usata già diverso tempo fa, poi stranamente è stato ripreso dagli inglesi come weighted points per game, che è la stessa ponderazione per le gare. Ecco, lì questa espressione, questo inglesismo, diciamo, funziona. Da noi algoritmo applicato alla ponderazione fa subito gridare a grande preoccupazione. Non è altro che un modo per far sì che ci sia, prima che ripartano i campionati, e comunque questa ponderazione si applica con dei criteri minimi, cioè aver svolto almeno 3-4 partite, perché io non devo conoscere diciamo lo stato di fatto nel momento in cui si interviene con l'applicazione di alcuni algoritmi o di una, se volete, di questa ponderazione, che mette tutti nelle stesse condizioni. È un principio di onestà, di giustizia e di equità. In sostanza, io non so se tra 3 giornate di campionato, 4 giornate, tutti hanno disputato le stesse gare. Cosa vogliamo fare? Cristallizzare la classifica e non tener conto che c'è qualcuno che in quel momento è penalizzato? Ecco, questa è la domanda che io vorrei rivolgere a chi con grande stupore oggi ritiene che l'algoritmo sia una parolaccia che non si può pronunciare. È un modo, un calcolo matematico nel mettere a disposizione del mondo del calcio, di tutte le componenti, una modalità per essere giusti e arrivare tutti nella stessa, per essere messi tutti nelle stesse condizioni. Gli inglesi lo stanno facendo, non è una media secca, ma è una valutazione che tiene conto delle partite che sono state giocate in casa, quelle che sono state giocate fuori casa, eventualmente quelle che ancora sono da disputare, dei gol fatti, dei gol subiti, e quindi c'è una valutazione in termini di correttivi che hanno una minima, sottolineo, minima influenza, però hanno comunque, diciamo, trovano un'applicazione per dare, ripeto, un principio di equità a quella che è una classifica che deve comunque essere ponderata se ponderazione viene richiesta. Avete detto benissimo, questa è una sorta di assicurazione sullo svolgimento del campionato, perché io credo fermamente e sono convinto che se tutti quanti noi continuiamo ad essere responsabili nell'applicare correttamente le regole, il rispetto dello stare insieme, nel saperci anche relazionare, dando anche una testimonianza civile e morale, quella testimonianza che comunque spero si sia depositata nella coscienza di ciascuno di noi, io credo che il campionato non dovrebbe subire grandi sussulti e si dovrebbe arrivare fino alla fine. Condivido in pieno l'ottimismo, Presidente. D'altra parte mi sembra un banale principio giuridico, cioè stabilire le leggi prima di cominciare a giocare. Questo è semplicemente banale, giuridicamente parlando. Condivido l'ottimismo perché mi auguro che a quella, insomma, a quella differenza reti non, scritta sul tabellino non si arrivi mai. Le chiedo invece come valuta la posizione dei giocatori in questo momento, come in questo periodo, anzi, ritiene siano sempre state legittime e comprensibili le loro prese di posizione? Beh, alcune sicuramente sì, altre discutibili, ma credo che in un momento di grande tensione, generato appunto da una situazione di grandissima emergenza, ciascuna componente ha avanzato delle idee che erano sicuramente da valutare, da prendere in considerazione, alcune legittime, altre un po' meno, alcune condivisibili, altre forse un po' meno. I calciatori sono una componente fondamentale del mondo del calcio, però anche i calciatori, come tutti i dirigenti, sanno benissimo che quando si vive un momento di grande emergenza, dall'emergenza si esce solo se siamo tutti insieme, e se stiamo stare tutti insieme non significa portare a casa il miglior risultato possibile, significa anche avere la capacità, la maturità e il senso di responsabilità di fare anche qualche piccola rinuncia. Sì. Presidente, ma il ruolo del ministro Spadafora, per tante settimane molti, anche noi, l'abbiamo interpretato come un nemico della ripartenza del calcio. Le chiedo se è stato veramente così, se ha avuto diverse fasi, insomma, che tipo di rapporto c'è stato tra il calcio e il ministro? Ma io col ministro Spadafora ho avuto un ottimo rapporto, costante, non dico quotidiano, ma quasi, di confronto. Sicuramente la sua prudenza è stato probabilmente quell'atteggiamento strategico, tattico, se volete, che ha consentito al calcio di arrivare nelle migliori condizioni oggi nel poter dire si può partire. insieme abbiamo condiviso due principi fondamentali che io ho sempre detto e dai quali non ho avuto mai nessuna intenzione di derogare. La prima, che il calcio doveva partire quando ripartiva tutto il nostro paese, perché, sottolineo, non abbiamo mai chiesto canali preferenziali, ma soprattutto votato a un principio di prudenza. La prudenza che significa, sempre avuto senso e significato, di tutela della salute di tutti i suoi protagonisti. Questi due elementi messi insieme sono stati i due elementi ai quali il ministro si è ispirato, l'abbiamo condiviso. Certo, è inutile dire che i momenti di tensione ci sono stati perché c'era voglia, forza di accelerazione in un processo che oggi, devo dire, strategicamente forse sarebbe stato dannoso per il nostro sistema, considerati alcuni rischi di positività che avrebbero comunque compromesso il risultato finale. Quindi credo che oggi dire che il risultato è stato un risultato grazie anche al determinante comportamento del ministro Spadafora, di tutti i contributi, le riflessioni del CTS, credo che siano state oggi sono condivisibili. Mi auguro che con la stessa capacità di dialogo e di confronto, soprattutto per quanto riguarda il comitato tecnico scientifico, si arrivi comunque a limare ulteriormente qualche piccola restrizione che oggi ancora ci pesa sul nostro capo. D'altra parte, che fosse la via giusta lo dimostra anche l'atteggiamento attuale dei summenzionati francesi che, per usare degli eufemismi, non sono esattamente felici di come sono finite le cose. Le chiedo un'ultima cosa da parte mia. L'ha chiesto anche Giulini stamattina. È ragionevole pensare ad una fine di campionato magari con una minima presenza di pubblico sugli spalti? È un auspicio. Davvero me lo auguro di cuore, perché sto seguendo per altre ragioni, per interessi anche legati alla mia passione culturale, l'evoluzione, la disponibilità all'interno dei teatri italiani, delle arene, delle manifestazioni culturali all'aperto. Mi viene in mente l'Arena di Verona. È impensabile che in uno stadio da 60.000, 40.000, 80.000 spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima, con tutte le dovute precauzioni, nell'assistere a una gara. Sicuramente è prematuro oggi, ecco, mi auguro che alla partenza di questo campionato potrebbe anche lì arrivare un altro piccolo segnale di speranza per il nostro paese, ma soprattutto un modo per ricompensare di tanti sacrifici, di tante sofferenze gli appassionati del calcio italiano. Giovanni, il tempo per un'ultima domanda, rapida. Sì, quindi mi pare di capire non farà parte del pacchetto di modifiche che ci ha annunciato verranno richieste, se possibile, settimana prossima. L'ultima domanda però è sulla prossima stagione. Ha detto, se si parte il 12 settembre non ci sono problemi, altrimenti si può pensare a un format diverso, che significa eventualmente poter traslare i play-off, play-out l'anno prossimo, magari giocando solo l'andata? Non c'è una decisione in questo momento. Sulla base di una bozza di programma già stilato in maniera diciamo ancora embrionale da parte della Lega di A, che è la Lega competente in questo momento a decidere la sua programmazione, mi sembra che il calendario sia un calendario che permette lo svolgimento con partenza dal 12, ma anche leggermente più tardi per la stagione 2021. Nel caso in cui ci dovessero essere degli impedimenti oggettivi, come sapete l'articolo 218 del decreto rilancio consente alla federazione di andare in deroga ad alcune norme dell'ordinamento sportivo e quindi riprogrammare meglio la stagione 2021. Presidente, grazie davvero. Grazie davvero. A voi, buon grazie lavoro. Per l'ospitalità, grazie. Appuntamento a presto, presidente Gravina. Qui va anche un ringraziamento, credo, a parte di tutti noi, perché condivido quanto ha detto Giulini: gran parte del merito è stato suo per questa ripresa del campionato, cosa che auspicavamo in maniera forte, quantomeno. Giovanni, un'ultima cosa: hai notizie sulla stesura definitiva del calendario? Dovrebbe arrivare nel pomeriggio, poi in gran parte in realtà è stata anticipata e credo che alla fine con buon senso si vada incontro anche a risolvere i tanti nodi. Dall'anticipo della Coppa Italia lì serve una firma del governo che superi l'ultimo decreto, quindi la possibilità di anticipare al 12 e 13 giugno le due semifinali. E quanto agli orari, abbiamo parlato prima col presidente dei calciatori, beh insomma se alla fine stiamo parlando di una decina di partite su 124 da giocare nella finestra oraria, diciamo intorno alle 17, possono essere le 17:15, è chiaro che con il buon senso si può già dare una risposta concreta a quella che può essere una riflessione corretta se fatta in maniera non strumentale. Chiaro. E cioè che chiaro. Giugno e luglio sono due mesi oggettivamente complessi per pensare, soprattutto in alcune zone geografiche del nostro paese, di giocare a calcio. Sì, anche in Spagna peraltro è così, dove per, hanno deciso che insomma, alcune partite verranno giocate a mezzogiorno, all'una, salvo poi modificare questa idea in corso d'opera e se sarà necessario. Quindi d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, lo sappiamo bene. Giovanni, grazie, alla ciao, prossima Carlo. Ne approfitto per ricordarvi che domani facciamo festa, 2 giugno facciamo festa anche noi, ma torniamo in diretta mercoledì e ovviamente i giorni a seguire. Ci fermiamo per la borsa, però state con noi perché è una puntata con un doppio grande ospite, non solo Gabriele Gravina ma anche Marco Bellinelli da San Antonio, che sarà con arriverà anche Pardo, sarà con noi dopo la borsa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta convocati. Super ospite già annunciato, non è Pierluigi Pardo che però saluto. Ciao Pier. Ciao. Non somiglio nemmeno lontanamente a una signorina, buonasera, ma domani prima serata su Rai 1 Super Show organizzato da Rai e Master Group Sport, in cui compariranno tutte le facce più belle e più note dello sport italiano, sostegno la Croce Rossa, quindi motivi in più per guardarlo, poi vi do gli estremi. Tra queste facce più note e più belle, Marco Bellinelli. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao. C'è anche Simone Sandri da New York. Grande. Ciao Simone. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio Carlo. Ciao. Allora Marco, partiamo dalla serata di domani, protagonista su Rai 1, avrà a che fare con Fedez, se non sbaglio, giusto? Sì. È una cosa molto bella, sono molto contento di questo, sono qua a San Antonio appunto, come immagino sappiate tutti quanti, uh-huh. E ovviamente c'è stata questa possibilità di fare questo programma appunto che andrà in onda su Rai 1, Non Mollare Mai, e lo scopo ovviamente lo sappiamo tutti, che è quello di valorizzare l'attività svolta dagli operatori della Croce Rossa italiana, quindi bisogna sostenerla ovviamente attraverso il numero 45505, questa è una cosa ovviamente molto importante, ed è stato super divertente farla con Fedez. Sì, sarà divertente anche, ragazzi, e qui mi rivolgo a Simone e Sandri perché ne parliamo spesso, vedere la ripresa dell'NBA. Stato dell'arte, Simone? È stato dell'arte, sembra che si sia deciso per questa famosa bubble, cioè questa singola location dove tutte le squadre scenderanno per disputare forse la fine della regular season, ma sicuramente i playoff. Si batte ancora se abbia senso portare tutte le squadre o quante squadre o solo le squadre che sono già qualificate per i playoff e quindi disputare solo i playoff. Si disputerà ad Orlando, a Disney World. Ci sono diversi formati che la NBA sta vagliando, è abbastanza interessante. Di fondo ci sono la peculiarità è ovviamente di avere tutte le squadre in una singola location con e su questo il sindacato giocatore è stato molto chiaro, con l'ausilio delle famiglie, cioè con le famiglie al seguito, e ovviamente si disputeranno tutte le partite a porte chiuse, però una cosa è sicura, che l'America in questo momento è assolutamente assetata di sport e in televisione. Come sai, non solo l'America. Marco, questa soluzione, la tua pensiero su questa soluzione qual è? Ma guarda, è difficile avere un pensiero, nel senso che sai, in questo momento, poi come ha detto anche Simone, stanno parlando e ogni giorno esce una soluzione diversa, quindi L'unica cosa che possiamo fare noi ovviamente è quella di aspettare le parole di Silver e vedere quale sarà, diciamo, la loro decisione. Sicuramente sì, la cosa sicura che si possa fare tutta Orlando, appunto, a Disney World, e quindi insomma, se si dovesse fare, sicuramente sarebbe una nuova esperienza per tutti quanti, un'esperienza da affrontare con la mentalità giusta, e vedremo se si faranno solo i playoff oppure se ci saranno altre squadre che lotteranno, diciamo, per l'ottavo posto. Quindi rimane per ora ancora un punto interrogativo, però sicuramente penso che la ripresa del campionato sia quasi certa, devo dire. A proposito di grande creatività, Pier, di cui noi parliamo tutti i giorni. Sì, grande creatività è cercare nei limiti del possibile di trasformare un problema enorme in un'occasione comunque per ridare speranza, per ridare normalità alle persone. Volevo sfruttare il Beli per fargli fare l'inviato, anzi il corrispondente agli Stati Uniti, e farci raccontare qualcosa di più sulle varie fasi di questa pandemia negli Stati Uniti, su come l'hanno vissuta, ovviamente con la sua sensibilità e con la sua ottica del tutto privilegiata, no? da atleta professionista. Insomma, abbiamo visto una fase in cui ovviamente anche il dottor Sanders, abbiamo avuto una fase quasi di negazionismo, poi invece gli Stati Uniti hanno pagato un tributo di vittime molto alto, le differenze tra uno Stato e l'altro, l'NBA che si ferma praticamente all'improvviso, in un secondo, con una scelta del commissioner. Sì, è stata una cosa abbastanza difficile, nel senso che sai, noi diremo la grazia qua da San Antonio, ovviamente eravamo sempre in contatto al telefono con la nostra famiglia, e quindi riuscivamo a capire, diciamo, che la cosa che stava arrivando ovviamente era una cosa importante da non sottovalutare, e penso che qua all'inizio forse un po' come tutti quanti si sia presa un po' questa roba come un po' sotto gamba, ma alla fine ovviamente abbiamo visto che è una cosa molto seria, e è stata secondo me una decisione super giusta quella di sospendere il campionato immediatamente. Questa è stata una grandissima cosa dalla Lega, ed è passato tanto tempo ormai, perché noi siamo qua in casa ormai da 2 mesi e mezzo, e ovviamente sai, per noi la mancanza dell'Italia, la mancanza della famiglia è una cosa importante, però tutto questo problema, e speriamo che a breve si possa avere, diciamo, una soluzione, la normalità, cioè un'idea di normalità, esatto, no? Si possa tornare, diciamo, un po' più alla normalità. Il fronte dei giocatori sulla ripresa dei giochi com'è adesso? Perché ci sono alcuni inglesi, l'altro giorno leggevo, che non hanno tanta voglia, Marco. Ma guarda, io penso che sia anche abbastanza comprensibile, nel senso che prima di tutto sai, tornare dopo, perché poi adesso qua si dice anche di tornare a luglio, quindi vuol dire che il giocatore probabilmente ok, ha fatto attività in casa, però ovviamente sappiamo tutti che non è come fare allenamenti o fare partite durante il campionato, quindi sono cose completamente diverse, e fare 2-3 settimane di training camp per poi, diciamo, iniziare la stagione, quindi diciamo che il rischio è molto alto, perché ho visto comunque anche nel calcio, ho visto comunque anche in tanti altri sport che magari hanno ripreso, che non è semplicissimo tornare subito in condizioni ottime. Anzi, io penso che in una situazione del genere io non sono mai stato così fermo tanto tempo prima di un'attività fisica, quindi capisco che ci siano giocatori che magari sai, tipo non so, Steph Curry di Golden State, cioè farlo giocare per 400 partite evidentemente magari anche senza senso, perché loro comunque non hanno la possibilità di andare ai playoff, è una cosa troppo rischiosa, quindi non penso che metteranno in campo Curry oppure non so altri giocatori. Ho visto anche lo stesso Lillard di Portland che ha detto, sì, cioè, se si giocano i playoff ok, sì, io sì, mi gioco se c'è la possibilità, se no io non gioco, quindi sai, sono tutte cose giuste. Poi sai, c'è sempre comunque da tenere anche a mente che magari se una squadra che non lotta per il playoff può mettere comunque sempre a rischio una squadra che ormai è matematicamente ai playoff, quindi i problemi sono tanti. Sicuramente giocare solamente probabilmente i playoff, cioè 8 della squadra East e 8 della Conference West, sarebbe probabilmente la cosa più giusta e più sana probabilmente dal punto di vista della sicurezza a fare. Però capisco anche che squadre come noi, che comunque siamo a 4 partite dall'ottava, e altre squadre avrebbe probabilmente il diritto di giocarselo almeno per vedere se si può fare il playoff. Però in questo momento io penso che non si possa troppo pensare a queste cose, ma si deve pensare soprattutto alla salute, e in questo momento certo. Soprattutto la cosa più importante. Sì, questo è indubbio. Credo però che anche in America, così come da noi, Simone, ci sia una fame pazzesca di sport, che è un po' il senso di riprendere una vita pseudo normale. Assolutamente, e a parte per il messaggio che dà per una ripresa di una certa normalità, ma se vediamo i numeri di The Last Dance sono stati pazzeschi, i numeri della NASCAR sono stati incredibili, la NASCAR ha ripreso la settimana scorsa, i numeri della Bundesliga anche qua negli Stati Uniti stanno dicendo che, o i numeri della UFC stanno dicendo che... O Tom Brady che gioca a golf. Tom Brady che gioca a golf e che prende in giro Charles Barkley, assolutamente il messaggio è chiaro, il messaggio è che gli americani hanno una sete e una fame pazzesca di sport e un prodotto come questo, anche a porte chiuse, ma magari con delle idee particolari su come possono essere le telecast, con magari i giocatori microfonati, può essere molto appealing per le televisioni e per l'americano medio. Quello che dice Bailey è sacrosanto, perché ci sono dei problemi logistici, ci sono dei problemi veramente anche fisici e anche di, tra virgolette, di giustizia, perché come ha detto Marco, è impossibile vedere un giocatore che sta fermo, così fermo per 2 mesi, anche nell'off season, e però nello stesso tempo ci sono giocatori che non potevano uscire di casa, che magari abitavano in appartamenti, che non sono assolutamente allenati. Giocatori che avevano, come LeBron per esempio, che hanno il campo da basket in casa, che si sono allenati esattamente come in una normale off season, per cui arriverebbero a questa sorta di pre-season in condizioni completamente diverse, con le possibilità anche di infortuni muscolari, di una serie di problemi, per cui c'è anche questo fattore da tenere presente. Sì, poi il fatto di avere tutti gli occhi addosso, magari ci pensate, no Marco? Ah, sicuramente, cioè nel senso, allora, la voglia di giocare a basket ovviamente c'è, perché nel senso, sai, è la nostra vita, ci manca tanto, e sarà una cosa particolare, perché come dice anche Simone, comunque tornare a giocare senza tifosi sarà una roba abbastanza terrificante, cioè per noi, ma penso per tutti quanti, cioè vedere persone al palazzo che incendono per noi, che fanno tipo, è una cosa super importante da tutti i punti di vista, anche mentali, e però sì, insomma, l'unica cosa che dobbiamo fare è assolutamente aspettare questa, spero, giusta e sana decisione che presumo si possa sapere entro 15 giorni e vediamo, insomma. Tu hai mai giocato a porte chiuse? Io non ho mai giocato a porte chiuse, quindi sai, io ho avuto poco tempo fa, ho parlato con un mio amico che mi ha detto che aveva giocato una partita a porte chiuse senza tifosi, ovviamente, ed era stata una roba terrificante, ma da tanti punti di vista, cioè anche per noi comunque, sai, abbiamo dei riferimenti quando giochiamo in campo e vediamo il palazzo pieno, il palazzo vuoto, o l'energia che comunque ti può trasmettere, sai, il tifoso, sarà ovviamente una cosa stranissima, veramente, insomma, nessuno pensava a una cosa del genere, purtroppo. Si torna al campionato cadetti, mio caro. Sì. Ma guarda, forse al campionato cadetti qualche persona, cioè almeno un po' di persone c'era. Qualcuno c'era, sì. sicuramente i genitori, quindi... Dai, adesso ci saranno giusto quelli del referto. Ragazzi, stavamo tornando al nostro passato inglorioso, quello di Genta, comunque ha una sua dignità, il mio è veramente inglorioso di quando si è cominciato, però quello che dice Beri è assolutamente in linea con quello che raccontiamo ormai da tempo, che riguarda anche il calcio, che riguarda ovviamente tutti gli sport, cioè è evidente che c'è un elemento che manca, ed è un elemento fondamentale, importante, sarà forse anche un'occasione in più per riflettere sull'importanza di questo elemento, sul fattore ambientale, su quanto lo sport abbia senso se c'è qualcuno che ti guarda. D'altro canto è una situazione talmente tanto di emergenza, anche quello diceva Simone, secondo me è importante, la fame che c'è evidentemente anche negli Stati Uniti di sport, lo sport è fondamentale nella costruzione della narrazione, della vita insieme, quindi si parla tanto del dopoguerra, no? Di coppie Bartali, qua non è una guerra, quello che volete, però lo sport ci riporta a sorridere, ci riporta a pensare positivo, ma soprattutto anche a vedere di mille discorsi dei politici, ma certo Pierluigi, quantomeno hai l'impressione di vedere qualcosa di vivo che sta succedendo in quel momento lì. Fermiamoci giusto un istante, traffico, torniamo subito. siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14. Su Radio 24. Convocati. Torniamo qui sempre con Pierluigi Pardo, Simone Sandri e Marco Berinelli. Soprattutto Marco Berinelli, vorrei chiederti, Marco, un'impressione invece sul campionato che riprenderà, come riprenderà l'NBA. Sarà tutto molto strano e molto impronosticabile, credo, dal punto di vista del agonistico e del risultato anche finale. Bah, direi assolutamente di sì. Adesso ti dico, come dicevo prima, sai, le cose di come si possa tornare a giocare, insomma, quali siano le opzioni, se sono playoff oppure 4-5 partite di regular season più playoff, insomma, rimane ancora tutto un mistero. Però sicuramente sarà sicuramente strano, può capitare di tutto, perché ovviamente, sai, dopo così tanto tempo può capitare un infortunio importante in una squadra da titolo. Sì, E quindi, sai, altre squadre magari ne possono approfittare, e quindi sicuramente quando si riparte, e se si riparterà, ma presumo proprio di sì, direi che è giusto dire che tutto può succedere. Quindi da questo punto di vista probabilmente sarebbe anche particolare, capito? Sì. Perché, sai, magari la cosiddetta magari Lakers o Clippers o Milwaukee, che fino a 3 mesi fa erano le favorite per vincere il titolo, adesso probabilmente le cose potrebbero cambiare per tanti motivi, e quindi sì, ci potrebbe essere assolutamente più emozione, se si può dire, a svolgere o a finire questa stagione, che si riprenderà probabilmente a luglio. A maggior ragione, Simone, grande ribaltone possibile rispetto alle candidate che ha citato Marco, no? Se potevi dire Milwaukee Lakers, adesso magari ogni pronostico non vale più. Assolutamente, e in più c'è questo intangible del giocare senza pubblico, che effetto avrà sui giocatori, su quali saranno i giocatori che riusciranno ad adattarsi meglio a questa nuova realtà. I giocatori veterani probabilmente sì, però anche loro non sono state tested in questa situazione, che negli Stati Uniti non succede mai. Poi ci sono delle variabili quasi assurde. Aver spostato, diciamo, i playoff di 3 mesi permette, per esempio, non succede, ma per esempio a una squadra come Brooklyn di avere Kyrie Irving e Kevin Durant in squadra. Potenzialmente loro potrebbero schierare forse uno dei quintetti più forti della Eastern Conference ai playoff. Ripeto, non credo proprio che succeda, perché non credo che Kevin Durant decida di giocare i playoff dopo essere stato fermo per praticamente un anno. Però anche questo sono cose abbastanza sintomatiche della totale incertezza che accompagnerà questi playoff. E l'incertezza è un fattore importante che piace a tutti quanti, vale per il calcio, per il basket, per qualunque sport. Sì, l'incertezza, la motivazione, grande rimescolamento. Nessuno di noi sa come reagiremo a questa situazione, però sappiamo che sarebbe importante reagire, ecco, è sempre questo. E poi sappiamo che lo sport, con la sua forza che è enorme, può fare il resto, e farà il resto se si scenderà in campo. È ovvio che è una condizione emergenziale e va bene, insomma, va accettata appunto con un po' di senso di adattamento, parecchio sì. Senso di adattamento. Poi smetteremo di guardare vecchie partite, salvo The Last Dance. A proposito, Marco, l'hanno chiesto a tutto il mondo dell'NBA, anche a te, cosa di questa serie, il tuo pensiero qual è? Dai, cosa si può dire, nel senso che sicuramente è venuto fuori questo documentario, che ormai sapevamo tutti, insomma, la data di uscita di The Last Dance. Però, sai, in un momento in cui le persone dovevano stare in casa, e quindi c'è stata appunto la possibilità di vedere questo documentario devo dire, molto bello, in cui io, sai, nascendo, ma come tante altre persone, come tanti altri ragazzi, con Michael Jordan come modello di vita o come comunque eroe, ed è stato bellissimo, cioè dalla prima fino all'ultima puntata ti tiene proprio davanti allo schermo. Ci sono degli episodi ovviamente che io non sapevo e mi è piaciuto appunto sapere, e in tutto ciò io penso che in questo documentario venga fuori appunto la voglia di vincere di Michael Jordan, la superiorità, presumo che tutti abbiano capito che è stato e sarà per sempre probabilmente il giocatore più forte che abbia mai giocato a pallacanestro, di una mentalità clamorosa, cioè la sua voglia di vincere, la sua motivazione, la sua determinazione era qualcosa che probabilmente io faccio fatica a trovare anche adesso in alcuni giocatori o stelle NBA, quindi lui era unico ed è stato assolutamente un piacere clamoroso vedere The Last Dance. Sì, d'altra parte per queste grandi personalità nel mondo dello sport hanno questo tratto distintivo comune, no? Quella fame lì che probabilmente hanno solo loro. Ma sì, ma direi di sì, ma cioè lui dal primo giorno in cui approda, diciamo, a Chicago, cioè il suo pensiero è sempre stato, la sua mentalità è stato dire: va bene, da una squadra terribile, questa cosa dobbiamo portare a essere ricordata negli anni. E lui è riuscito a farlo. Ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che l'ha dovuto fare con tanti altri compagni di squadra forti, l'ha dovuto fare con un allenatore forte, l'ha dovuto fare ovviamente con un general manager che tutti probabilmente hanno massacrato, ma non dimentichiamoci che ha fatto il suo lavoro e ha portato sei anelli a Chicago, quindi secondo me lui ha fatto il suo lavoro. E quindi io penso che da questo documentario possa uscire anche, che penso che possa essere anche molto importante per tanti giovani, per tanti giovani che magari non conoscevano Michael Jordan, non sapevano, diciamo, quello che ha dovuto fare lui, quello che ha dovuto la squadra, i sacrifici per riuscire a vincere il titolo. Io quindi presumo che questo sia stato importante, non sia stato solo bello vederlo, ma sia stato anche importante apprendere appunto questo documentario. No, poi è riuscito perfino a generare polemiche postume, ad esempio con Scottie Pippen, con Horace Grant, che sono... Beh. polemiche a tutti questi anni di distanza era mica così scontato, almeno è la forza, questo è la forza, oltre al fatto che a un certo punto arrivi e vedi Clinton che parla, no? Sì, o Obama Obama, sì, che parla, Clinton che parla di Pippen, cioè c'è un livello veramente incredibile. Aggiungo che insomma secondo me è un documentario che fa bene al basket, fa bene allo sport in assoluto, perché dà allo sport l'ennesima conferma, l'ennesima dimostrazione della sua forza, della sua assoluta dignità, del suo essere assolutamente qualcosa di culturale, ma con la C maiuscola. Quindi secondo me io lo sto vedendo con una persona che non è esattamente appassionata di pallacanestro, e però insomma la capacità di coinvolgimento è enorme, perché ha il racconto, la drammaturgia vera, e poi soprattutto ovviamente questa telecamera puntata sempre all'interno dello spogliatoio, un po' come Capadia su Maradona, no? Questa capacità. E vedi delle cose che mai ti saresti aspettato di vedere, cose che voi umani non potevate neanche immaginare. Esatto. Simone, come siamo messi invece con i programmi dell'NBA di riformulare definitivamente il calendario della stagione, quindi di rendere definitivo l'inizio a Natale, la fine ad agosto, e quindi di scongiurare per sempre la possibilità di far combaciare i tempi dell'NBA con quelli olimpici? La NBA si prenderà tutto il tempo possibile da questo punto di vista, quando deciderà lo schedule di ritorno, quando si ritornerà ad allenarsi. Le voci dicono che si potrebbero ricominciare ad allenare il 21 giugno con un inizio verso la seconda o terza settimana di luglio, però questo è ancora da discutere, è ancora da contrattare anche con la situazione dei giocatori. Credo che in questo momento la NBA voglia fare piccoli passi, voglia decidere prima questa data, poi la data della lotteria per il draft, poi la data del draft e poi in un secondo tempo la data dell'inizio della stagione. L'idea di iniziare a dicembre è affascinante da un certo punto di vista, ma è molto complicata per il rapporto con la FIBA, è molto complicata per le Olimpiadi, ed è complicata anche perché vorrebbe dire che i giocatori probabilmente sarebbero costretti a fare qualche back to back in più e sempre che si voglia fare una stagione di 82 partite, e credo che i proprietari su questo non transigano. Per cui credo che sia, alla fine, molto probabilmente si arriverà magari a una sorta di compromesso. Si potrebbe iniziare a Thanksgiving, o magari la settimana di Thanksgiving, per cui la terza settimana di novembre, con l'idea magari di finire all'ultima settimana di giugno, magari al 4 di luglio. Sì, quindi una differenza non così abissale come sarebbe quella più drastica. Un'ultima cosa, Marco, quanto rimane ancora in America? Così per sapere. Cioè, quando ci vediamo? Quest'anno? Cioè, non quest'anno, quando torni a giocare. Ah, ok, scusa, la professionale era. No, anche perché si è parlato di una telefonata tra te e Messina e c'era Milano in fibrillazione. C'è Sacchetti che torna alla tua vecchia F, all'Aquila. Beh, qualche suggestione c'è. No. Devo dire che il mondo americano mi stimola ancora molto, il mondo NBA, quindi quest'estate appunto sarà free agent, quindi diciamo che non arrivo proprio nel momento top in cui si può diciamo parlare di free agency e cose del genere, però io quest'estate sarò appunto free agent alla fine della stagione e da quello che sembra, come diceva Simone prima, si dovrebbe finire la stagione, poi appunto il draft e poi dovrebbe iniziare diciamo il periodo in cui si parla dei giocatori free agent, tra quelli ci sarò io e spero che posso vedere qualcosa di bello, un contratto di un anno o due anni in una squadra importante, però ovviamente in questo momento questa è il mio pensiero, diciamo, la mia decisione comunque di rimanere qua nel mondo americano, sperando che tutto ovviamente vada bene. Insomma, rimani lì con Sandri e non torni qui da me, Pardo. Vabbè, ho capito. Una precisa scelta di campo. Ancora con Simone. Stai lì ancora così, vabbè. Grazie ragazzi, grazie Marco. Bocca al lupo. Grazie mille a voi, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao Simo, ci sentiamo grazie presto. Ciao a tutti, io ringrazio tutti i partecipanti, ovviamente, oltre a Claudio Schiattone in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.